manipola l'autorità. Mentre giura onestà, dietro la schiena un'altra volta, le dita incrocerà. Pussana ci pensa la folle a dar la sentenza di un folle che proprio l'altra notte si è pensato avesse troppo parlato, sbattuto dentro alla prigione con gli occhi dello stesso colore del cielo. Uomo né bianco nero a favore dell'accusa un diverso credo. Vola in alto sopra la luna e si schianta contro l'odio che arranca l'ardore. Dica che è venuto ad ottenere oro e donne in cambio di un racconto falso. Non si scappa, hey! Lascia che io possa spiegare. Ubriaco era stato incastrato, vittima di un colpo organizzato. Fu così che armato solo di vino quella sera fu arrestato come un assassino, tradito dal generale nemico, fulminato da un suo dio mai avuto. Gridava contro la strada più buia che era vittima dell'accusa, quella più legittima. Svaniscono le prove, si inchinano tutti al potere. E sempre così sarà, che chi giura onestà dietro la schiena un'altra volta le dita incrocerà. E mai più si farà giustizia, che tanto non si può far finta che mai nessuna guerra sia giusta. Che dietro ogni processo, se cambi le tue carte, io porterò le prove. Se tagli le mie gambe, cammineremo insieme. Se cambi le tue carte, io porterò le prove. Se affoghi la mia rabbia, la negheremo insieme.